Di, ascolta e controlla. La lettera di una ex studentessa. Carissima Margherita, sono partita da pochi giorni e già sento la tua mancanza. Ricordo con nostalgia le ore passate insieme, i tuoi consigli e le tue premure per me. Appena potrai, scrivimi e fammi sapere come sta la tua famiglia. Spero proprio che verrai a trovarmi durante le prossime vacanze. Ora ti saluto. Non ti dimenticare di me. Ingrid.